Mercoledì 28 marzo, intanto uno sguardo ai titoli per il Sole 24 Ore, investimenti, la carta cinese, questo è il titolo di apertura. Ovviamente c'è il Premier in tour asiatico anche per promuovere i mercati italiani. La riforma elettorale invece è per l'apertura per tutti gli altri quotidiani. Si sono visti ABC, Alfano, Bersani e Casini. Riforma elettorale, prima intesa, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, accordo sulla riforma elettorale. La Stampa, intesa tra i partiti per cambiare la legge elettorale. Il Giornale, il finto inciucio, ed è la legge elettorale. La riformetta elettorale per il secolo XIX, accordo sulla legge elettorale per il Messaggero, l'ABC delle riforme per Avvenire. E chi apre in modo diverso sono il Fatto Quotidiano, noi truffati dallo Stato, la vicenda degli esodati, l'Usi parla panico nel PD, così apre invece Libero, mentre per l'Unità, ritorno in fabbrica, alla Magneti Marelli il giudice condanna la Fiat per condotta antisindacale, il Manifesto, il regolamento di conti, e c'è una foto di scontri tra polizia e lavoratori dell'Alcoa. Tra l'altro nella notte è stato trovato un accordo. Ora però uno deve mettersi di buon animo e leggere questo titolo che trovate un po' su tutti i giornali. Quello che mi ha fatto più sorridere, ma sì, io sorrido quando leggo, è questo titolo del Messaggero: torna la tassa sulle calamità, benzina a rischio aumento. Ma come benzina a rischio aumento? È la cosa più costosa, la vendono quasi più dell'oro ormai. Benzina a rischio aumento. E questo titolo mi fa quasi sghignazzare, incredibile. Ritorna l'accisa sulle disgrazie, questo è il senso. Il secolo XIX la spiega, pagina 12, funziona così. Ci hanno messo lo zampino dei senatori. Alcuni senatori hanno fatto entrare con un emendamento l'accisa sulle disgrazie, che era stata cancellata. Funziona che in pratica le regioni che devono fronteggiare situazioni di calamità e che attingono al fondo della protezione civile per le calamità naturali, c'è stato in Liguria, c'è stato in Toscana, vi ricordate di recente, dovranno provvedere a ripagare quanto attinto nel momento di difficoltà. Cioè la protezione civile nazionale non paga più a fondo perduto, le regioni possono attingere a questo fondo della protezione civile ma dovranno poi ripagare in un secondo tempo. Ora la domanda è: chi ripaga secondo voi? Chi ripaga? Carmelo ha già capito la risposta, come un po' tutti voi ascoltatori. Chi ripaga? L'automobilista di quella regione. Cioè la regione ha la possibilità di aumentare l'accisa regionale, in questo caso sulla benzina, sul carburante, e quindi pagando l'accisa sul costo della benzina, che ormai già è a 2 euro al litro più o meno, si ripaga, la regione può ripagare. Cioè non è che magari si tagliano un po' di spese della regione, no. Una bella accisa regionale sulla benzina e il gioco è fatto. Ritorna l'accisa sulle disgrazie. E anche per il Quotidiano Nazionale, benzina, torna la tassa della disgrazia. Già definire la tassa della disgrazia è una nuova stangata in agguato. Eccolo qua, rischio di... Attenzione cari ascoltatori, se non è aumentata abbastanza, rischia di aumentare la benzina. Questa non sarebbe una notizia, ma invece è una notizia evidentemente. La seconda segnalazione, prima di andare alla pubblicità, è di qua, la voglio dare dal Giornale. A pagina 9 esce il libro dell'ex direttore generale della RAI, Masi, e Paolo Bracalini fa delle anticipazioni. Il titolo esce il 4 aprile, si intitola Un nemico alla RAI, 800 giorni contro nella TV pubblica. Gran parte delle anticipazioni regalate dal Giornale sono su Michele Santoro, o meglio sulla versione di Masi su Santoro. Il titolo infatti del Giornale è Tutta la verità sui compensi milionari di Santoro, che si era accordato, racconta Masi, per 17 milioni di buona uscita, 3 annualità di stipendio, 2.799.000 euro, 69.600 euro di ferie non godute, il TFR, e 14 milioni di euro più IVA per le miniserie che si era ripromesso di dare alla RAI. Una serie era prevista dal titolo Il signor M, poi uno sceneggiato storico giudiziario sull'Olocausto e una miniserie in giallo da girare a Pantelleria. Queste erano le proposte di miniserie che aveva offerto Santoro alla Rai, racconta Mauro Masi. Poi vabbè, racconta tutto il rapporto tribolato, Mauro Masi che dice: quando mi mandò a vaffanbicchiere Santoro fu un'offesa insanabile. E quindi ci fu quella famosa puntata di Santoro in cui Masi telefonò in diretta. Perché lo feci? Ho commesso forse un errore. Se quel mio intervento sbagliato ha evitato che Santoro tirasse al massimo la corda, allora sono quasi contento di avere commesso quell'errore. Ma poi secondo me l'anticipazione, che anche questa mi ha fatto strappare una risata questa mattina, io ringrazio i giornali quando li leggo, uno arriva stanco già alle 6 del mattino, uno si sveglia alle 5 e mezza ma legge queste notizie. Il direttore generale della Rai, Masi, racconta in questo libro, a proposito di raccomandazioni, che una volta un consigliere di amministrazione della Rai mi raccomandò una ballerina zoppa. Questo, una ballerina zoppa. Se fossimo su Twitter metterebbe l'hashtag raccomandazioni. Una ballerina zoppa raccomandata da un consigliere della RAI al direttore generale. Ma poi raccomandazioni di tutti, dice, chiamano tutti per farsi ospitare a un programma, chiamano gli aspiranti famosi, i chirurghi plastici sono definiti tra i più molesti, dei veri rompicoglioni. Tutti i chirurghi plastici che ci ascolteranno saranno molto contenti di questa definizione del direttore generale della RAI, ex Masi. Seguiti poi dai politici che chiamavano per essere infilati nei pastoni del TG. Ma certo che la ballerina zoppa, se è vero, raccomandata, supera veramente, quasi come il colmo dei colmi di Emilio Fede, che si è visto, ma lui nega, ma lo vedremo tra poco, un versamento di euro da una banca svizzera. Siamo riemersi alle 7:36 minuti. Allora, la notizia più diffusa sui giornali, nelle prime pagine, è la notizia che io trovo sempre francamente molto noiosa: il dibattito sulla riforma elettorale. Però si sono visti Alfano, Bersani e Casini, si sono visti tra l'altro nello studio di Silvio Berlusconi, e quindi questo fa ironizzare Arturo Parisi del Partito Democratico, che a pagina 2 del Corriere della Sera dice: evidentemente non è più ABC Alfano, Bersani e Casini, ma dobbiamo chiamarli la BBC, BBC, non lo so come, no, all'italiana, BBC, Berlusconi, Bersani, Casini. Sta di fatto che l'accordo sul quale si lavorerebbe per una ipotetica riforma elettorale da fare forse nei prossimi mesi, avete visto quante tra condizionali e dubitativi abbiamo messo, allora un sistema fondato sui collegi nel quale scompaiono le coalizioni, resterebbe invece l'indicazione preventiva del Premier e una soglia di sbarramento, si parla del 4-5%, sarebbe previsto inoltre un diritto di tribuna per i minori e un premio di governabilità. La vera novità sarebbe proprio questa, scompaiono le coalizioni, cioè l'obbligo di fare le coalizioni prima del voto. C'è invece la richiesta di l'indicazione del Premier che verrebbe eletto se vince quel partito. Però certo, nell'analisi di Repubblica di Carmelo Lo Papa a pagina 7, retroscena, è ovvio che per questo gongolava soprattutto Pier Ferdinando Casini, il terzo polo, perché l'idea di non fare le coalizioni prima intanto vorrebbe dire la fine del bipolarismo e poi darebbe appunto peso a magari quelle coalizioni che hanno 3, 4, 5, 6, 7% e che una volta espresso il voto possono tentare in un secondo tempo di fare una coalizione per poi andare al governo. Comunque, tutti i tecnicismi elettorali, se siete interessati trovate tanti articoli su questo, sui vari giornali, le analisi. Forse la cosa più interessante per gli italiani è che si sarebbero accordati per fare forse in futuro un ipotetico taglio di parlamentari, cioè una riforma costituzionale che porti a 200 parlamentari in meno. Erano il 50% in meno fino a qualche mese fa nell'ipotesi di tutti. e quindi da 945 toglie arrivare, fate la metà, io in matematica a quest'ora soprattutto non ce la faccio, non ce la posso fare, però invece adesso il taglio è ridotto rispetto a prima, 200 parlamentari in meno, questo l'ipotetico accordo che è stato preso ieri dai segretari di partito. Ieri, mentre il premier Mario Monti era in Cina, tra l'altro trovate tutti i dettagli sul Sole 24 Ore con la promessa degli investimenti da parte della Cina, investimenti maggiori, è successo un siparietto che a dire spassoso è poco. Allora immaginate la scena, c'è il summit, c'è Obama, c'è Medvedev, c'è Hu Jintao, c'è Monti, ci sono tutti i leader, no, dei grandi paesi. A un certo punto la portavoce di Monti, o comunque chi accompagna il premier, entra per la terza volta dicendo: Presidente Monti, c'è una telefonata urgentissima. Monti è con Obama, con Medvedev, con Hu Jintao, con i leader del mondo. No, Monti, presidente, deve uscire, c'è una telefonata dall'Italia urgentissima. Monti esce, chi è al telefono? Fabrizio Cicchitto, capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera, doveva parlare del fatto che il DDL, il disegno di legge sulla corruzione, così non va. Come racconta Donatella Stasio a pagina 18 del Sole 24 Ore, un vero e proprio altolà sul metodo in cui è stato discusso il DDL anticorruzione, che non piace a Silvio Berlusconi, e quindi il presidente del Consiglio a Seul è costretto ad allontanarsi dal summit proprio mentre parla il presidente americano Obama, perdendosi tra l'altro una citazione da parte di Obama e degli elogi del numero uno della Casa Bianca al nostro primo ministro. E c'era Cicchitto. Tra l'altro il Corriere della Sera racconta, pagina 4, il PDL al premier, corruzione così non va, questa scena con Marco Galluzzo, con mentre Obama pronuncia Monti da elogiare, si gira e tutti guardano Monti, Monti, where's Mr. Monti? Mr. Monti, President, è al telefono con Cicchitto. Questo Monti era fuori spazientito al telefono con Cicchitto, tanto che lo stesso Cicchitto viene intervistato dal Corriere a pagina 4, la chiamata Obama? Questa è la prima domanda che Monica Guerzoni gli pone. Eh sì, era molto incuriosito, voleva conoscere la persona che è riuscita a distogliere Monti dal suo intervento. Scherzo, ovviamente. Poi Cicchitto parla di un episodio di nessuna importanza, enfatizzato da altri. Certo che però ci sono anche delle immagini che possono colpire, no? E questa è una di quelle. Monti era lì con Obama a parlare, Obama lo cita, si gira, dove è scomparso Obama? Era al telefono con Cicchitto. Fotografie dell'Italia, ecco. Il tema della riforma del mercato del lavoro è il tema su cui ci concentreremo anche dalle 8.20 sia con Paolo Ferrero di Fondazione Comunista, sia con due giornalisti, Antonio Padellaro, direttore del Fatto, e Piero Stellino, perché Monti, tra l'altro l'avete sentito nel GR poco fa, ha ribadito da Tokyo, dove si trova, la riforma del mercato del lavoro, gli italiani la vogliono. L'altro ieri aveva detto: o è così oppure non tireremo a campare. Il ministro Fornero dice: non ne faremo, certo non accetteremo che ne vengano fatte polpette di questa riforma. Sta di fatto che il tema del lavoro è ancora in primo piano. Il Fatto Quotidiano mette il titolo in prima pagina, che è questo. È questo, se lo trovassi, lo ritroverò. Eccolo qua. Noi truffati dallo Stato, il Fatto è inondato di messaggi di esodati del governo Monti, lasciati senza lavoro e senza pensione. Raccontano storie drammatiche, 350.000 persone di cui nessuno vuole occuparsi. L'avete visti anche gli scontri degli operai dell'Alcoa? A Roma, tensioni, scontri. Tra l'altro il Messaggero mette in prima pagina una foto che a me ha suscitato davvero un po' di senso di sdegno, lo devo dire. La protesta e l'oltraggio. Ci sono alcuni operai dell'Alcoa che legittimamente manifestano per la difesa del proprio posto di lavoro, ma fanno un gesto che questo è illegittimo, di legittimo ce l'ha, ma davvero... io definirei vergognoso. Cosa fanno? Bruciano una bandiera italiana. Il rogo della bandiera italiana e delle schede elettorali, i tamburi e i caschi sbattuti a terra sulle saracinesche, i bastoni contro gli scudi dei carabinieri, scrive il Messaggero in prima pagina. C'è un motivo, per grave che sia, in grado di giustificare azioni simili? La risposta è una sola: no. I 350 lavoratori dell'Alcoa, società produttrice dell'alluminio, hanno messo in scena un rituale profanatorio e distruttivo, purtroppo non nuovo a Roma. L'effetto, una nube di sdegno sulle ragioni della protesta, un torto così grande le offusca tutte. C'è la foto di questi operai che appiccano il fuoco alla bandiera italiana. Io l'ho messa anche su Twitter, la potete vedere. È anche la prima pagina della Padania, una foto gigantesca, tanto quanto la prima pagina, appunto. Il titolo è «La disoccupazione brucia il tricolore». E la Padania ovviamente cavalca questa vicenda per dire la dimostrazione che lo Stato nazionale è fallito. Eccoci qua, l'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, ha parlato e parla con i magistrati. E questa è una notizia che certo tutti i giornali, ieri ha parlato per 6 ore, ovviamente non si conoscono i contenuti del suo colloquio, ma il quotidiano Libero apre su questo: Lusi parla, panico nel PD, si è presentato con 2 valigie piene di faldoni. Quello che emerge sui giornali, la linea di difesa di Lusi sarebbe questa: ai vertici della Margherita c'era un patto per spartire i soldi. Insomma, ritirerebbe in ballo Rutelli, Bianco, i vertici della Margherita, dicendo loro sapevano. Tra l'altro è stata intercettata anche una, non so se una battuta o chissà cosa, di Lusi prima di entrare in procura. I viaggi, i ristoranti, qualcun altro del partito ha usato la mia carta di credito. No, questa della carta di credito usata a sua insaputa, vi prego, anche questa dopo la casa a sua insaputa, anche la carta di credito usata a sua insaputa, questa sì, francamente non la posso reggere neanche mezzo secondo. C'è poi tutta la vicenda Emilio Fede, è trattata dai giornali, se la volete leggere ci sono delle spassose interviste. Emilio Fede fa intervista al Corriere della Sera con Fabrizio Roncone, era ospite ieri anche della nostra Zanzara con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, è intervistato anche da Libero a pagina 5, è intervistato da Repubblica a pagina 18, parla di bufala per farmi fuori, non sono mai andato a Lugano. Al Corriere della Sera Fabrizio Roncone dice: forse era un mio sosia, forse questa è la tesi più accreditata, un mio sosia. Tanto che lo dice anche a Repubblica, e Antonello Caporale lo prende un po' in giro: chissà quanti Emili Fede girano indisturbati per l'Italia, ma i sosia di Emilio Fede. Guido Ruotolo, il fratello, Guido Ruotolo sulla Stampa scrive che l'ipotesi è una possibile vendetta di Lele Mora, mentre Libero Emilio Fede dà questa versione: ho un'idea precisa di chi è dietro a questa manovra, non posso entrare nei particolari, ma io lo definisco qualcuno che ha contatti con i servizietti da toilette deviati. Questa è la versione di Emilio Fede, che dice ovunque mi vogliono portar via il TG4. Ma su questa vicenda voglio leggervi la maca di Michele Serra, perché riassume un po' tutto. Scrive Michele Serra su Repubblica: la senilità di Emilio Fede ha spessore romanzesco. Tra Piero Chiara nei momenti alti e Fantozzi nei tonfi, i cronisti che tentano di ricucirne la trama maneggiano ingredienti fantastici, bische, debiti di gioco, traffico di signorite in combutta con amiconi del bel mondo, imputazioni di prosenetismo, stremati giuramenti di eterno amore alla moglie come nei film di Germi. Ora, strepitoso sussulto per un ottuagenario, compaiono una valigia piena di quattrini e una misteriosa amante cubana, che a noi piace immaginare molto matura ma ancora in grado di accennare una rumba. La valigia sarebbe stata rifiutata da una banca svizzera, circostanza anch'essa stupefacente perché non si conoscono precedenti. Le banche svizzere hanno fama di accettare valigie piene di qualunque roba, siano pure denti d'oro, scalpi umani, triglie andate a male. Ma il colpo di teatro che costringe il pubblico all'applauso lo aggiunge lui, negando l'esistenza di valigie anche della Svizzera. Fede denuncia una manovra per farmi perdere la direzione del TG4. Il pubblico trattiene il fiato. Chi vuole, dopo soli soli 30 anni di direzione, praticamente appena insediato, levare il TG4 a Emilio Fede? I comunisti? I creditori? Al-Qaeda? Il marito dell'amante cubana? Vogliamo la prossima puntata. Presto! Questo Emilio Fede, letto da Michele Serra oggi sulla Maca. Vicenda ben più seria, ben più grave. Noi lo abbiamo avuto anche ai nostri microfoni. Il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli ieri è stato ancora contestato da alcuni che si sono definiti eredi dei partigiani, 26 ragazzotti invece di un centro sociale. Il cantiere, tra l'altro, che è un centro sociale, io faccio il gesto con la mano, è dall'altro lato della strada rispetto a da dove trasmettiamo noi, la sede del Sole 24 Ore. Siamo proprio vicini di casa, vicini di cantiere. Si sono presentati a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dove Caselli doveva fare la presentazione del libro, e hanno inscenato una protesta. In 25 siamo i nuovi partigiani, gli eredi dei partigiani. Il presidente dell'ANPI dice: per favore non citate nemmeno lontanamente i partigiani e non accomunateli alla vostra protesta. Giancarlo Caselli, intervistato dall'Unità, pagina 21, dice: mi sento minacciato. Le scritte: Caselli, ti faremo a brandelli, Caselli brucerai, Caselli come Ramelli, Caselli come Moro. Certo non mi mettono di buon umore, ma non mi spavento, ne ho viste di peggio ai tempi del mio impegno contro le Brigate Rosse, contro la mafia a Palermo. Insomma, la linea è quella. Secondo questi ragazzotti che Caselli non esita a definire squadristi, si tratta di episodi di squadrismo, una cosa con la quale non intendo interloquire. Caselli sarebbe colui, cioè emblema della procura di Torino, che ha messo in carcere alcuni dei notav. E questo è il motivo per cui appunto lo contestano un po' ovunque. Davvero incredibile, ma dice Caselli: Milano ha sconfitto l'odio degli squadristi, così li definisce. Devo chiudere, vi segnalo due articoli interessanti sul Corriere della Sera. No ai compiti a casa, i genitori che vogliono abolirli in Francia, e il fenomeno sempre più massiccio di genitori che non vogliono i compiti a casa perché poi si ritrovano a passare dei weekend poco simpatici. Mentre lo trovate sul Corriere della Sera, mentre sulla Stampa trovate questo dibattito lanciato da Vogue America: è giusto fare la dieta a 7 anni? Fa discutere un articolo confessione su Vogue con l'esperto che dice: il cibo non può essere punitivo per i nostri bambini. Stasera tutto pronto, partita. Birra, pizza, pallottoliere, c'è tutto. Milan, Barcellona. Il giornale radio.